lascio dentro me il mio disordine, cura di un volto immobile. Aspetto solo che ne possa ridere per non sentirmi fragile, per non sentirmi fragile, per non sentirmi fragile, per non sentirmi fragile, fragile, fragile. Io non ho mai usato tattiche, mi lascio andare a patto che riesca a vincere il tuo volto immobile. Quando il mondo dorme, il silenzio parla più forte ed io l'ascolto tutte le volte. Mi suggerisce di scorrere via come acqua sulle tue braccia che mi rubano energia, come l'umido degli occhi che mi guardano e mi dicono che forse sarai mia e non fa sconto, no. La voglia che ho di guardarti in profondo, anche dove non vuoi, anche dove non si può, dove custodisci te stessa ed altre cose che non so, io mi racconto. E se confessarti quello che provo è un colpo basso, allora sono il più stronzo, perché sei forza vitale. Ed ecco perché un po' ti amo, un po' ti voglio male. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me baby. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Okay, just love me baby, love me baby. Brucio le paure oltre il mio limite per non sentirmi mobile. Mi abbandono al tuo calore perché non posso più fuggire da te. Chiudo lo sportello e non mi volto. Tu mi sussurri che non ce ne andrai, ma non ci conto. E per quanto mi riguarda voglio tutto e subito, e continuare a girarci intorno è stupido, okay. E ci ho provato ad essere immobile come te, e ho realizzato in tempo che non fa per me, okay. E se il calore di un corpo scioglie il gelo, stringimi più forte o congeleremo. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me baby. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Okay. Just love me baby, love me baby. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me baby. Just love me baby, love me. Just love me baby, love me. Okay. Just love me baby, love me baby.